vago già di cercare dentro intorno la divina foresta spessa e viva, che agli occhi temperava il nuovo giorno, senza più aspettar lasciai la riva, prendendo la campagna lento lento su per lo sol che d'ogni parte oliva. Un'aura dolce, senza mutamento avere in sé, mi feria per la fronte, non di più colpo che soave vento, per cui le fronde tremolando pronte, tutte quante piegava dalla parte, u la prim'ombra gitta il santo monte. Non però dall'ora esser dritto sparte tanto, che gli augelletti per le cime lasciasser d'operare ogni loro arte, ma con piena letizia l'ore prime cantando ricevevano tra le foglie che teneva a bordone alle sue rime, tal qual di ramo in ramo si raccoglie per la pineta in sul lito di chiassi, quand'era lo scirocco forte scioglie. Già m'avean trasportati lenti passi dentro la selva antica, tanto ch'io non potea vedere ond'io m'entrassi. Ed ecco più l'andar mi tolse un rio, che in ver sinistra con suo epicio l'onde piegava l'erba che in sua ripa uscio, tutte l'acque che son di qua più monde. Per io non avere in sé mistura alcuna verso di quella che nulla nasconde, avendo anche si muova bruna bruna sotto l'ombra perpetua che mai raggiar non lascia sole ivi né luna. Coi perri stetti e con gli occhi passai di là dal fiumicello per mirare la gran variazione di freschi mai, e l'anno apparve siccome egli appare subitamente cosa che disvia per maraviglia tutt'altro pensare, una donna soletta che si gira e cantando scegliendo fior da fiore ond'era pinta tutta la sua via. Deh, bella donna, che raggi d'amore ti scaldi, s'io vo credere ai sembianti che sogliono essere testimon del core, vegnati in voglia di ritrarti avanti, dissi io lei, verso questa rivera, tanto ch'io possa intendere che tu canti, tu mi fai rimembrare dove e qual era Proserpina nel tempo che perdette la madre lei ed ella primavera. Come si volge con le piante strette a terra entra sé donna che balli, e pede innanzi pede appena mette, volsesi sui vermigli e sui gialli fioretti verso me, non altrimenti che virgine che gli occhi onesti avalli, e fece i preghi miei esser contenti, sì appressando sé che il dolce sono venia a me coi suoi intendimenti. Tosto che fu laddove le erbe sono bagnate già dall'onde del bel fiume, di levar gli occhi suoi mi fece dono. Non credo che splendesse tanto lume sotto le ciglia a Venere, trafitta dal figlio fuor di tutto suo costume. Ella ridea dall'altra riva dritta, trattando più color con le sue mani che l'alta terra senza seme gitta. Tre passi ci facea il fiume lontani, ma le spuntola ove passò serse ancora freno a tutti orgogli umani, più odio dall'Eandro non sofferse per mareggiare intrasesto e abido che quel da me per calor non saperse. Voi siete novi e forse perch'io rido, cominciò ella, in questo loco eletto all'umana natura per suo nido, maravigliando tembi alcun sospetto, ma luce rende il salmo di Latasti, che puote disne pià vostro intelletto. E tu che sei dinanzi e mi pregasti, diss'altro voglio dir, ch'io venni presta ad ogni tua question, tanto che basti. L'acqua, diss'io, e il son della foresta impugnan dentro a me novella fede di cosa ch'io udì contraria a questa. Ond'ella, io dicerò come procede per sua cagion ciò che ammirar ti face, e purgherò la nebbia che ti fede lo so bene, sono esso a sediare, di pace, per sua difalta qui dimorò poco, per sua difalta l'impianto e l'affanno cambiò onesto riso e dolce gioco. L'acqua che vedi non su questo vapor che il gel converta, come l'altra che acquista e perde vena, ma esce di fontana salda e certa, che tanto dal voler di Dio riprende quant'ella versa da due parti aperta, da questa parte con virtù discende, che toglie altrui memoria del peccato, dall'altra d'ogni ben fatto la legge, quinci le te. Così dall'altro lato e uno è si chiama e non adora se quinci e quindi tria non è gustato a tutti altri sapor, questo è di sopra. E avvegna che assai possa esser sazia, perché più non ti scuopra, darotti un corollario ancor per grazia, né credo che il mio dir ti sia men caro se oltre promessione così spazia. Quelli che anticamente poi daro l'età dell'oro e il suo stato felice, forse in questo loco sognaro, qui fu innocente l'umana radice, qui primavera sempre ogni frutto, nettare questo di che ciascun dice. Io mi rivolsi indietro allora tutto ai miei poeti e vidi che col riso udito avevano l'ultimo costrutto. Poi alla bella donna tornai.